La carne coltivata, come dice appunto il nome, è un prodotto alimentare ottenuto a partire da cellule staminali prese da animali, e quindi si arriva a ottenere quei tessuti che poi vengono mangiati, cotti nei modi ordinari, attraverso una procedura tecnologica che non implica alcun coinvolgimento degli animali vivi, quindi è una procedura che permette di saltare tutta la filiera della produzione di carne, dall'allevamento al mattatoio, quindi salvando gli animali e offrendo ai consumatori che non riescono a farne a meno proteine animali attraverso una modalità che non ha un impatto né su esseri senzienti né sull'ambiente, perché sappiamo che la filiera dell'allevamento è una delle cause principali addirittura sia dell'inquinamento sia del riscaldamento globale. Infatti appunto sono diversi quindi i benefici di questa modalità di produzione di carne. Sì, vanno soprattutto in queste due direzioni. La nostra trasmissione, che si dichiara animalista e antispecista, ha altri orizzonti in realtà. Noi pensiamo che avremmo bisogno, per salvare il pianeta, dare un futuro alla nostra e alle altre specie, di cambiare un paradigma filosofico addirittura, potremmo dire, quindi di considerarci animali, di includere gli altri animali nel nostro orizzonte, quindi superare quella che è stata la storia dell'umanità con un antropocentrismo che nella società industriale è diventato un sistema di distruzione delle vite altrui, producendo quegli effetti anche che oggi abbiamo sotto gli occhi, appunto la messa a morte di miliardi di animali per l'alimentazione, che soprattutto nel mondo occidentale i consumi di carne sono esplosi nel dopoguerra, sono arrivati a delle medie per persona che ormai sono sopra i 100 kg all'anno, anche in Italia si arriva ai 200 negli Stati Uniti, con un impatto legato soprattutto agli allevamenti, che sono un sistema, se togliamo la parte etica, morale, sono un sistema gravemente inefficiente, sia per il sovraconsumo di risorse naturali. Per produrre un chilo di carne, di proteine derivate dalla carne, servono quantità di acqua, di mangimi, che sono soprattutto in questa fase storica la soia, no? È stata cambiata anche l'alimentazione degli animali e sono costretti ora a mangiare soia, che hanno una serie di effetti collaterali che sono sia il riscaldamento globale sia per esempio la deforestazione. La causa principale della deforestazione in Amazzonia è la produzione di soia destinata ai consumi animali, ai mangimi animali. E se invece di un'alimentazione carnivora avessimo un'alimentazione solo su base vegetale, ci sarebbe un risparmio di acqua, di terreno, un non inquinamento che ci permetterebbe di ottenere risultati immediati e molto tangibili anche nella lotta ai cambiamenti climatici. Per questo, diciamo, la società tecnologica nella quale siamo immersi sta in questa fase elaborando soluzioni come la carne coltivata. Poi dopo si tratta ovviamente di fare delle scelte politiche. Il nostro governo mi pare stia assumendo una posizione un po' isolata, un po' di retroguardia. Ecco, quindi insomma mi pare di capire dunque che ovviamente da una prospettiva animalista la carne coltivata non è la soluzione, però sicuramente è, come dire, una riduzione del danno. Perché a tuo avviso il governo italiano ha paura di questa cosa? Perché questa prospettiva implica comunque un cambiamento, quindi una redistribuzione dei poteri anche economici. È chiaro che chi oggi controlla la filiera della produzione della carne, quindi dagli allevamenti in poi, si troverebbe a dover rivedere le proprie produzioni, si dovrebbe immaginare un processo di transizione che sarebbe ovviamente progressivo. È difficile pensare che ci sarebbe uno spostamento immediato dei consumi dalla carne tradizionale a quella coltivata, ma un governo illuminato e una coalizione di stati illuminata che volesse intervenire sui cambiamenti climatici, questa strada la dovrebbe intraprendere pagando il costo, diciamo, di una opposizione iniziale di quei settori che ovviamente si troverebbero in difficoltà per dover affrontare una transizione. Credo che il governo italiano, che tradizionalmente è vicino al mondo degli allevatori, dell'agricoltura, pensiamo alla vicinanza che c'è con Coldiretti, abbia fatto una scelta di questo tipo, di opportunismo del momento, di scelta tattica, diciamo, più che strategica, e quindi si pone a difesa di questi interessi, ma è una scelta francamente anacronistica. Penso che lascia anche un po' il tempo che trova, se, come credo, attorno alla carne coltivata si svilupperà un processo internazionale, diciamo, di tentativo quantomeno di favorirla.